dei Forconi, che appunto la politica ormai ha deluso, e annuncia che vi sarà un tour fatto di 8 date, tutti nei Palasport, e dice anche che ha rifiutato l'invito a Sanremo, o meglio, la partecipazione a Sanremo come una vera e propria concorrente cantante, proprio perché non sopporta il fatto di essere giudicata in base a un televoto. Questo che uscirà sarà un album chiaro, limpido, che culla verso i molteplici mondi del sud, che dove vi sono delle culture diverse, colori, suoni, e guida anche alla consapevolezza che c'è un popolo provato e stanco di continui soprusi e ingiustizie economiche e sociali. Beh, è un grande album che siamo ovviamente curiosi di ascoltare al più presto possibile. Intanto dice che il suo primo tour comincerà il 21 marzo a Napoli in un Palasport. Bene, siamo contenti per Fiorella Mannoia, che finalmente è ritornata tra di noi comuni mortali, cioè è ritornata a regalarci tanta bella musica italiana, che ne abbiamo proprio di bisogno. E noi continuiamo ad ascoltare la musica. Yeah. My number one, Alexander Stan. That's right. Yeah. Call Prick. Take it. Let's go. You're one in a million. In my heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. So brilliant, girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. It feels like I've been lonely when you're gone. Stavo bene, ero solo con gli amici. E un tratto tu, sì tu, spiegami perché, da quando ho incontrato te, tutto è diverso. Non volevo più restare a pensare alla mia vita. Guardami, tendo la mano, lontano. E anche se cerco di scappare in vano, mi allontano dalle stelle. E adesso guardami. Questa era proprio Natura Umana di Gianluca Grignani. Vi ricordo che siete sempre in diretta all'interno di Bella Vita in compagnia della vostra Rosy e saremo ancora un'altra bella oretta insieme ad ascoltare sempre belle musiche. Resemble Sade, imported her in from Raleigh and pulled up into the valet. The boy dropped the keys, trying to sneak a peek at that body. See, this that time of the week, she like to freak a leak and get naughty. Therefore, I like to thank God and Ice Cube for Friday, cause la-di-da-di. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag goo. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, saucy drippin' swag goo. Oh. Che non ne sentirete mai più parlare. The winner is proprio Kevin Spacey. E questa era l'ultima canzone dei Caparezza, sempre al solito sono molto divertenti, ci fanno ascoltare questa musica allegra e noi proprio per questo li ringraziamo. Su su su su su. Ma sapevate una cosa? Che adesso chi fa qualcosa di brutto, nel senso uno realizza, inventa un oggetto inutile, lo può portare al museo e avrà lo stesso successo, non per forza deve essere utilizzata una nuova invenzione, può anche essere trasportata e direttamente in un museo aperto in Austria e subito diventi famoso per aver realizzato un'invenzione non utile. È proprio quello che è successo in Austria, precisamente nella città di Herrenbaumgarten. Fritz Gall ha sempre avuto il pallino dell'inventore, ma come capita a diversi aspiranti inventori, le sue invenzioni erano spesso creative ma poco pratiche. Non si è scoraggiato e ha deciso di organizzare una fiera delle invenzioni spazzatura, coinvolgendo molti inventori che hanno mandato le loro invenzioni, ovviamente tutte quelle invenzioni che non hanno avuto successo, Quindi automaticamente dobbiamo riconoscere la loro autoironia, complimenti a loro. E dichiarano che si aspettavano ovviamente pochissimi visitatori, in realtà invece hanno avuto più di 5.000 visitatori e quindi hanno capito che l'idea, nonostante tutto, risultava essere buona. Così ha deciso Gall, questo Fritz Gall, ha deciso di sviluppare ulteriormente il museo, riuscendo ad ottenere anche una partecipazione da alcuni enti pubblici che hanno ritenuto interessante supportare questa fantomatica idea. Tra le invenzioni esposte troviamo l'anonimizzatore portatile, cioè praticamente un rettangolo, cioè che da solo immaginare fa completamente ridere, un rettangolo di cartone nero attaccato ad un'asticella che dovrebbe consentire a chi lo usa di occultare la propria identità in pubblico. O per esempio un'altra invenzione assurda esposta è la matita a prova di errore, cioè praticamente quelle matite che impediscono di scrivere cose sbagliate perché non hanno lamina. Cioè, ovviamente, però non possono manco far scrivere le cose giuste, va dato che non hanno lamina. Oppure un'altra invenzione assurda esposta in questo museo? Dei spazzolini senza setole, inventate proprio per quelli che non hanno i denti. Che ridere, che stupidaggine. Però dai, ha avuto tanto successo, allora tanto di cappello a questo tizio che si chiama Fritz Gall. Mamma, mamma, mamma. E vabbè, noi siamo tutti quanti pazzi, ormai che mondo sarebbe se non ci fosse un po' di pazzia? Saremmo tutti monotoni, noiosi, lì col broncio. Su questo ne sono pienamente convinta. Ma siccome siamo all'interno di Bella Vita, in compagnia di Rosy, vi ho semplicemente detto che potete fare le vostre richieste qui su Facebook al www.crmpradio.it, oppure chiamando il 335 5637251 oppure 0921 923292. Allora avete fatto ovviamente alcune persone, perché voglio tante richieste, però una di queste persone è riuscita a fare la sua richiesta. Stiamo parlando della nostra cara amica Patrizia, che richiede una canzone bellissima, una canzone che è ormai diventata famosa all'orecchio di tutti, alla portata di tutti, una canzone che lei dedica alla mia collega Jerry, che Jerry sicuramente non la potrà sentire più. Urle non mi senti, Alessandra Moroso. Tornerò meno fragile. Resterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Resta lì pure in silenzio, giudica ora che non avrei più paura di soffrire. Sparirò come pioggia nella sabbia. Brillerò tra le stelle, chiudi gli occhi e riuscirò a toccarmi. Dicono che non si può rinascere, facile dirlo per chi non ha incontrato la tua pelle. Dormi tranquillo, stai lontano dai miei spalli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti. E dimmi se a volte poi tra la gente questa quindi era la richiesta dedica di Patrizia per la nostra amica Jerry, che ovviamente odierà questa canzone, ne sono sicura, se conosco un briciolo Jerry sicuramente la odierà. E vi ricordo che Jerry è domani pomeriggio alle 15. Continuiamo con la musica. I can remember that when I was a little you, I wanted to fly around the world making a new life. I never thought today I'd be what I am now. Yo, wanted to be a fireman and I lost the desire, man. The second I got old enough to buy myself a cider can. Yeah, I was a smart little kid, that size the part of me since. These days you can catch me sitting on the bench in a park of a lager and crisps. That if I think back to the days when I thought I didn't think that nothing that I thought would not be possible. Trying to figure that out, back when I didn't know how. I settled for a desk job, bringing those pounds. I wanted to deliver those clouds. These days I deliver those sounds. I always thought of myself as a simple dreamer. I never tried too hard to believe this. Now all of a sudden it's gone my way. abbiamo cambiato sicuramente genere di musica. Questi erano gli Evanescence con What You Want. Che cosa volete? Volete riposo? Volete tanto divertimento? Cosa preferite di più? Beh, sicuramente quello che dice una ricerca inglese che ha studiato lo stile di vita di 2000 adulti riscontra che si è ben lontani dall'essere al 100%, quindi già è difficile essere al 100% al giorno d'oggi, tra lavoro, casa, famiglia e tante cose. Infatti queste cause sono tantissime e soprattutto anche il fatto che il lavoro fa accavallare gli impegni uno dopo l'altro e quindi si riposa male e poco la notte. Il momento in cui si raggiunge l'efficienza maggiore è proprio il martedì alle 11.30, vedete che precisione questo test, dopo che il lunedì è passato ma non si ha l'ansia di non avere tempo di finire quel che si deve fare entro la fine della settimana lavorativa. Però a compromettere il tutto è la pressione di capi e colleghi, ma anche quella che ci si autoimpone e che crea quindi una sorta di ansia da prestazione. 4 lavoratori su 10 infatti arriverebbero alla fine della giornata lavorativa esausti, una situazione che potrebbe avere ricadute sulla salute, specie se si protrae per lunghi periodi di tempo. Come forse si può indovinare, i giorni invece meno efficienti sono appunto il lunedì e il venerdì. Sabato invece tra le 10.30 e le 12.30 è il momento in cui ci si sente più rilassati, beh, perché si sa che c'è la domenica e quindi almeno ci si può riposare un pochettino. Poi la domenica è triste perché si pensa al lunedì che si deve ricominciare a lavorare, che tristezza. Bene, ma noi continuiamo ad ascoltare la bella musica, la musica che richiedete voi qui in diretta su CRM e P Radio all'interno di Bella Vita. Infatti proprio la nostra amica Chiara ci richiede la sua canzone, una penso tra le sue preferite, Emma Marrone, Tra passione e lacrime. Chiara, questa è tutta per te. La stessa stanza caldissima, senti la pioggia che rumore fa, ancora nel mio letto. Cosa fai così innocentemente, ma innocente non sei, come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Sogno dolcissimo, da sempre sull'orlo, sempre in bilico, tu offri parole come fossero fiori e un vento di scirocco ti trascini fuori. Come fai? Come un ladro di notte apri tutte le porte. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way. The dancers may be on the floor. Here, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway. Bello anche ascoltare ogni tanto questo ritmo latinoamericano che ci invade, che ci trafigge tutte le nostre vene e ci fa ballare, ci fa alzare sicuramente dalla sedia per ballare. E sì, infatti, qui all'interno di Bella Vita ascoltiamo di tutto e di più. E sicuramente adesso possiamo ancora continuare a ballare. Balliamo sicuramente un genere diverso, un genere ascoltato tanto tempo fa, nelle nostre discoteche tanto amate. Sicuramente ogni tanto, forse a fine serata, ascoltavamo questa canzone, già Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, soltanto per voi. I Wanna Dance With Somebody con Whitney Houston, bella canzone. Sono sicura che vi è piaciuta, perché è bello tornare un po' indietro nel tempo e riascoltare queste canzoni che sicuramente hanno segnato periodi della vostra gioventù, per quelli che magari ci ascoltano e sono un po' più grandicelli, e sicuramente anche a noi giovani questa canzone piace sempre riascoltarla. E a proposito di Whitney Houston, possiamo dire che torna al cinema dopo 16 anni, infatti tutto pronto per il grande ritorno di questa strabiliante cantante, che al cinema ritorna dopo tanti anni e sbarca nelle sale americane il 10 agosto il suo remake del film del 1976 Sparkle. In rete circola la prima immagine promozionale che vede la cantante in gran forma al fianco della coprotagonista Jordyn Sparks, che è la vincitrice dell'American Idol del 2007. E questa neo-attrice, Jordyn Sparks, tra l'altro dichiara che ha sempre cantato le canzoni di Whitney Houston, e quindi è un sogno che si avvera il fatto di poter stare al suo fianco adesso che nel film rappresenterà la sua mamma. E la pellicola è ispirata alla vera storia delle Supremes, dalla difficile ascesa del gruppo vocale femminile di Harlem fino al successo. Durante le riprese di questo film, dice, racconta Whitney Houston, che si è divertita molto perché tra l'altro c'erano parrucche, costumi pazzeschi, dice che ha passato tutto il tempo a cambiare abiti, a divertirsi in questo modo, perché tra l'altro il film è ambientato nel 1963, quindi avevano a disposizione un armadio ricco di costumi particolari. E invece Jordyn, questa ragazza entrata da poco nel mondo cinematografico come un artista in generale, da poco, quindi neonata sotto questo punto di vista, era molto emozionata, e soprattutto il fatto anche di stare accanto a una cantante del genere, ovviamente è stato quindi questo sogno che finalmente le si è avverato. E infatti finalmente diamo di nuovo il benvenuto a questa mitica cantante Whitney Houston, perché l'ultimo film lo ha registrato nel 1996, quindi diciamo che era ora che tornasse un pochettino a farsi di nuovo vedere. E noi siamo sempre qui in diretta all'interno di Bella Vita, insieme a voi, la vostra Rosy, che è venuta a trovarci un mio caro collega appena conosciuto, il nostro amico Puglisi, che ogni mattina vi terrà compagnia, come al solito avete visto. Per ora per un po' non si è fatto sentire, ma ritornerà presto. Ha voluto fare la sua richiesta, ovviamente io non posso fare altro che accontentarlo. Caro collega Puglisi, questa è per te la tua canzone, presumo preferita a sto punto, Modata Peto di Fragole. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ingiallita è tutto quel che ho, e non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto, aspettando di volare un po'. Guardare le nuvole su un tappeto di fragole. E questi erano i Moda e Tappeto di Fragole, questa canzone richiesta appunto, come ho detto poco fa, dal mio collega Puisi. E quindi li abbiamo dedicate e noi continuiamo ad ascoltare la musica di CRM qui in diretta insieme alla vostra Rosy. Una canzone un po' vecchiotta direi anche questa, però è sempre bello riascoltarla. Sono i Queen! I want to break free. Meta ma volo solo nel mio pensiero, dove ogni nuvola è come te. Tutte le scosse che sento non sono soltanto dei brividi, sono emozioni che gridano in fondo ai ricordi abbandonati. Cielo, restando immobile volo, solo con me il mio pensiero che mi riporta da te, via da te. Mentre tutto gira e non si ferma, in quest'aria da tempesta eterna, tutto quel che resta è niente senza te, senza cielo e senza ali. Io volo, volo anche se nel mio cielo quello che resta non è come quello che resta. Questa era l'ultima canzone che potremmo sentire, anzi la penultima, no mi correggo, la penultima era Raf. E adesso ascoltiamo quest'ultima canzone richiesta, perché ormai siamo giunti proprio quasi al termine del nostro appuntamento, perché fra poco ci sarà il nostro Roby D'Antoni con il suo On The Road. Questa è Adele, Make You Feel My Love, una musica tranquilla, ve la dedico tutta quanta, rilassatevi. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Thank you.

drug, you're all that I'm thinking of. I'm all that you want tonight. My feet stamping on the floor, your sweat dripping off the wall. We move and our bodies talking night. Got on, doing your mouth and tongue. Come on, open up, come on. We dance in the simple cold, the sensory overload, the sweet and the salty. Yes, I feel it within my chest. We fall deep into a trance. Forget who we were, just dance. Buon pomeriggio radioascoltatori di CRM, ecco una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Bella Vita. Sì sì, proprio Bella Vita, siete in compagnia di Rosy, la fantastica Rosy. No, si scherza, non sono fantastica, però sono allegra. Oggi sono particolarmente allegra e voglio rendere al massimo questa giornata dandovi tante belle soddisfazioni e soprattutto regalandovi tanta bella musica. La musica proprio qui di CRM in questo giorno di martedì 24 gennaio 2012. Bene, siamo qui in diretta, non posso fare altro che ricordarvi i nostri numeri con le quali poterci contattare in modo tale da poter fare le vostre richieste, le vostre dediche e quindi ascoltare le vostre canzoni preferite. Potete mandare un messaggino al 335-56-37251 oppure potete chiamare lo 0921 92 32 92. Ma se volete essere super extra tecnologici, beh, andate direttamente sul vostro PC, andate su Facebook. E se siete nostri amici, aprite benissimo la chat di Facebook di CRM Happy Radio e scrivete in contemporanea con me direttamente. Subito tata, avremo botte e risposte e potremo parlare di tante cose. E poi, beh, www.crmhappyradio.it potete benissimo mandare un messaggio o direttamente richiedere la vostra canzone qui da questo sito, che appunto, ripeto, è il www.crmhappyradio.it. Bene, allora non ci resta altro che cominciare con le belle canzoncine, le canzoncine che scelgo io solo e soltanto per voi. Allora, per cominciare ho scelto una bellissima canzone, la nuova di Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo. Ciremini, questa è per voi. Cade la neve ed io non capisco che sento davvero, mi arrendo,